spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Fedra C. Boscaro e Stefano W. Pasquini. Ok. You in my life, just give me back mine. I think it's about time you. There isn't room in your life for more pairs of shoes. It's all about you, so you're only in love with yourself, obsessed with how well you're coming across. Get lost. Now I can see I was just starting to match with your purse. I'm not your poodle. No, please. Why are you acting so cocky? You can meet like your chicks bounce like volley, 'cause I know tomorrow night at pillow talk time you call my phone sobbing and sounding all sorry. You were so silly acting all gobby, 'cause I just ain't another girl like me. Plus you ain't worth another girl like me. I can do way better than you, it's all glory. Now I'm pulling the chains, so it's flush out my veins, out the drain. Flush, you're like a no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, ditch my book, meet my friends. Flush, sorry love, what was that? What I heard was nah, yeah. I've been too nice, too nice, too nice. You can't afford to be sore. I think you've been smoking way too much more. 'Cause I've been too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. Before you get here, is that ma non è valido, voglio sentire quello che dici in diretta. Proviamo, prova a parlare. Ma non ti si sente? Così? Adesso sì, bene. Una Roberta Giallo così, era da tanto che non la vedevo. Grazie Fedra, sono molto in forma in effetti. E benvenuti alla 151esima forse puntata di Coxo Spaziale, l'arte come non l'avete mai, che oggi si fregia del primo super mega galattico ospite della quarta stagione del Coxo. Niente popò di meno che... avevo anche il coso degli applausi. Roberta Giallo! Yuhu! Allora devo spiegare a chi mi sta seguendo in diretta che loro non sentono quello che mi chiedi tu, quindi vedono solo a me che parlo. Allora facciamo così, digli. Dico a voi che state in diretta. Perché allora innanzitutto diciamolo anche a chi ci ascolta, sì. Nel caso e Roberta, cantautrice di ormai talento innegato, innegabile, dilagante, e lo sappiamo che è una per nostra fortuna grandissima amica del Coxo, e è in diretta sui suoi canali Facebook. Adesso sei su quello del profilo? Allora, loro o purtroppo sulla fanpage? No, continuano a non sentire quando parli tu, quindi posso venire di là, mi dicevi? No, ma sto dicendo a quelli della radio. Chi ascolta in radio, di che tu stai facendo la diretta. Giusto. Adesso tu parla per quelli per che tutti. Ascoltano dall'altra parte. No, io parlo per tutti, sì, parlo per tutti, perché questo è un esperimento, ragazzi. Cioè, oltre alla diretta radio, quindi ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Fujiko, ci sono gli ascoltatori dello streaming di Facebook di Roberta Giallo. Che fra l'altro sanno benissimo già da mo' chi sei e a loro cosa dico fai. Che se mi vedete zitta perché non sentite lei, non è che sono pazza e che devo aspettare le domande che mi arrivano in cuffia. Il dialogo dinamico che è classico del Coxo. Detto questo, basta, io ho avvisato tutti, quindi sappiate che c'è un motivo. Che io, colpa, mea culpa, mea culpa. Però se consiglialo, se consiglio si connettano. Di sintonizzarvi sullo streaming di Radio Città Fujiko, perché lì potrete seguire il dialogo. Insomma. Quindi vi vedrete il bellissimo volto della nostra cantautrice preferita e anche quello che dice insieme a me, che sono di qua, insomma, che insomma sono da complemento. Esatto, per seguire in modo umano, non disumano, questa trasmissione, andate nello streaming di Radio Fujiko. D'altro canto, a chi ci ascolta in radio, se volete vedere quello che sta succedendo, andate sulla fan page di Roberta Giallo, che si chiama Roberta Giallo Fan Page. No, solo Roberta Giallo. Ok, su Facebook, oppure sì. Quella. Giusto? Quella, sì, Roberta Giallo la trovate. La e potrete vedere quello che succede in diretta, perché Roberta Giallo, oltre ad essere una grandissima, una talentuosissima e virtuosissima cantautrice, è anche una, l'ho chiamata con... sta facendo un sacco di complimenti. No, beh, è vero, tu sei una ideatrice di format, non meno, un'artista contemporanea e performativa. Wow, fella, una che grazie. Una ne pensa, mille ne fa e tutte buone. Cioè, un miracolo, un prodigio della natura che noi abbiamo la fortuna di avere qui a Bologna. Grazie, mi sto sciogliendo dopo tutti i tuoi complimenti. Sì, tante cose bollono in pentola e ci sono tante cose di cui parleremo. Io risponderò alle domande che tu mi farai. Così potranno... Allora, facciamo così, per rimanere anche nella famosa struttura coxica, sì. Che ti ricordi, perché abbiamo avuto anche la fortuna di averla come co-conduttrice coxica l'anno scorso, anzi forse addirittura la prima che ha inaugurato, e infatti poi sono andate bene le co-conduzioni, perché le cose che inaugura Roberta poi... Io direi, belle. Partiamo con un brano. Sì. Io partirei da Tabula Rasa. Va benissimo. E così, che è un brano che tu hai prodotto qualche anno fa ormai. Sì, è un brano che è uscito un paio di anni fa, Tabula Rasa, adesso la mandano in radio. E sì, è un brano che poi lo dice la parola stessa, Tabula Rasa, è quando si riparte da zero, dal nulla, no? Dallo zero assoluto. E noi partiamo da una bella Tabula Rasa per dare la cifra delle tue doti e poi partire in questo viaggio cosmicamente autunnalmente giallo. Esatto. Si edifica sul nulla. Ma importa, non mi importa di niente, non mi importa più di te. Faccio fuori nostalgia e dolore e riparto da me. Di te non resta più niente, nonno, che di te non resta più niente, neanche le parole. Si sono come scelte al sole di quel 5 di luglio. Virginità dei pensieri e delle azioni libererà e non mancherò di testimoniare la bellezza delle stagioni. Ora che ho nitida, ora che ho nitida la visione delle cose, ora che sono finalmente tornata in me, in me. Incontro al deserto, vado incontro a un'oasi, la mia sete comincia a scemare, il cuore rinviene. testimoniare la bellezza delle stagioni. Ora che ho nitida, ora che ho nitida la visione delle cose, e ora che sono finalmente tornata in me, in me, in me, in me, in me, oh, in me, in me, oh, in me, in me, in me, oh, oh, oh, oh. Ragazzi, che emozione, guardate, veramente, non ho parole, una fortuna unica e non vi dico quello che mi è successo nella pienezza della mia persona. Va bene. Torniamo seri. Torniamo seri e se vuoi possiamo provare ad usare quel microfono e... Sì. Ma insomma, qui ragazzi, per voi che non state seguendo la diretta e che ci ascoltate in radio, Roberta ha reinterpretato la sua canzone facendo quello che Pasquini dice che non si fa mai, ovvero cantare sopra le canzoni. Però era lei, era meravigliosa, ci stava anche ballando e io mi sono persa. Stavamo giocando, dai, così, in modo sportivo e easy. Esatto, esatto. E io, quindi, per la prima volta con Roberta Gialdo, grande iniziatrice di format e sperimentazioni, sto sperimentando la diretta con l'ospite in regia. Senza cuffie. No, ragazzi, vuoi sono prendere qui... le cuffie? Ah, prendiamo anche le cuffie, giusto, così magari la mia esce una voce anche più bella. Sentendomi. Allora ti prego intanto che ci racconti qualcosa. Io di... poi chiedo perdono a Fedra perché ho deciso di fare questa cosa per rendere possibile la diretta insieme a voi, quindi sto mobilitando tutta la struttura del coxo, però lo sto facendo per voi ragazzi, quindi perdonate questa defiance. Ho preso per un momento appunto il posto di Fedra qui al coxo spaziale, sono Roberta Giallo perché si è sintonizzata adesso e non lo sa, non mi sto neanche rendendo conto di essere in radio, secondo me mi sembra di essere a casa mia. Ma questo è bello perché questa è la bellezza di Radio Città. Adesso ti ridò però lo sgabello, tanto sì, ma l'abbiamo preso. Io starò in ginocchio. Ah no, è alto anche il posto. No, sono due ginocchi. Perfetto. Due ginocchia. Scusate il rumore degli sgabelli, ma ecco, ci siamo. Ma questa è una diretta con una diretta performativa. Performativa. Non solo radio, ma anche video. Certo. Siamo davvero, siamo qui. Siamo qui. È la mia prima diretta video Facebook in radio. Fateci, insomma, non lo so, che sono molto pensate, confusa. Ecco. E sono successe cose sconvolgenti di cui io poi ti dirò appena manderemo il prossimo brano. Ma adesso io devo parlare guardando avanti perché il mio microfono è frontale, quindi ti guarderò riflessa nel monitor del telefonino. Ma dimmi un pochino, Roberta. Sì. Questo era un brano che io ho tanto amato e continuo ad amare, infatti insomma lo canto anche quando lo ascolto, mi sono dovuta trattenere ma mi sono sfogata a farti il video. Ho sentito i cori, infatti. E che cosa succede? Che cosa è successo da allora ad oggi? Non sono più la stessa, oppure pur essendolo si sono aggiunte delle parti, ho scoperto altre dimensioni, altre cose, e a parte gli scherzi, ma tanto la mia vita è tutto uno scherzo della natura e degli spiriti, non so come dire, quindi sono successe tante cose. A livello lavorativo ho avuto la fortuna di suonare molto in giro e anche lontano, sono stata ad Hong Kong, per dire. È vero, questo succedeva in estate, in agosto se non sbaglio. Sì, e poi ho avuto la fortuna, insomma, l'anno scorso di curare una rassegna che ha avuto anche un grande successo al Bravo Caffè, il Martedì in Giallo, che ricomincerà, ragazzi. Che era appunto uno di questi format che ha inventato l'anno scorso. Yeppera. Un salotto musicale in cui tu invitavi cantautori che inizialmente credo tu abbia invitato, poi la questione era riuscire a metterli in calendario perché un sacco da tutto lo stivale arrivavano per... Sì. Conoscerti in questo salotto. Ho avuto la fortuna di tanti cantautori abbiano voluto prendere parte a questo, mi piace la definizione di salotto, fa molto elegante, fa molto cultura. Fa molto giallo. Sì, fa molto appunto, no? E no, quindi ho avuto la fortuna che molti cantautori hanno avuto il piacere di venirmi a trovare, poi venire a trovare me, Bologna, tutto il contesto bolognese che comunque è culla da tanto tempo di cantautori, no? E quindi per me è stata un'esperienza fantastica perché adesso mi sento, prima non mi sentivo, forse mi sentivano piano. Probabilmente sì. Vabbè ragazzi, avete scoperto ora la mia voce. E no, dicevo, quindi è stato bello perché ho potuto davvero poter ascoltare tutto un sottobosco di cantautori e cantautrici, mi raccomando, anche femminili, bravissime persone. Il numero un po' minore, sbaglio? Il numero minore perché le donne sono sempre un po' meno, cioè almeno le donne che si pubblicizzano, che si sono proposte. E poi io ho seguito anche un pochino l'ordine temporale delle proposte, anche perché il calendario è finito presto, cioè data anche la grande richiesta ho dovuto chiudere un calendario, anche stando un po' al gusto personale, diciamo, ma anche un po' a chi si era giustamente presentato prima. E quindi spero che le donne quest'anno siano di più, ma già, perché questa è quindi una grande novità di questa stagione. Questa la dico qui, poi la dico in sordina perché la scaramanzia ormai è da tutte le parti. No, partirà il martedì in giallo, non ho ancora fatto un annuncio ufficiale sui miei, insomma, sulle mie pagine. È un'anteprima coxica. È un'anteprima per Radio Città Fujiko, per Coxo Spaziale, certo. È un'anteprima e di per Roberta la mia Gialli. Amica, per la mia amica Fedra. Ma come sembrava a farle fusa? Bella. Grazie, questa cosa. Mi alleno da una vita. No, sì, è un'anteprima perché, ripeto, non l'avevo ancora detto pubblicamente, anche se anche lì, insomma, un po' in sordina ci stavo già lavorando perché già mi hanno scritto un po' di persone che volevano partecipare. Però tra poco renderò pubblico il fatto che si ripartirà il martedì in giallo, quindi cantautori e cantautrici italiane, contattatemi se volete sapere di che cosa si tratta. Sappiate che rimarrà il Bravo Caffè il luogo dove verrà presentato, e niente, poi ci sarò io che presenterò, sceglierò, qualche volta mi esibirò. Per fortuna, che sì. La giallo ci sta sempre bene, insomma, ma in ogni caso sei tu, però sei anche molto performativa quando sei in salotto, vero? Ma non è una, poi anche il palco in qualche modo ci chiama delle imprese che se stessimo sulla scrivania di casa magari non faremmo, no? Quindi non è un fatto, anche io tendo a sottolineare, di costruzione, di finzione, di falsità, che poi finzione e falsità sono due cose diverse. Il palco, cos'è questo buio? Credo che forse stia andando in stop. Ah, no, è il monitor che sta andando in stop. Ah, ok. Abbiamo meno luce e quindi ci siamo rabbuiate. Non so quelli da casa, quelli che sentono la radio cosa pensano, perché non vedendo l'immagine non capiscono. Comunque immagino che saranno tutti corsi a connettersi da Facebook. È una puntata particolare, no? Dicevo, sì, io sono un po' confusa, devo dire. Adesso poi di là c'ho tutto il CDA della radio, sicuramente mi licenzieranno e non ci sarà più il coxo, però sarà chiuso in bellezza. Sì. No, mi perdoneranno quelli di Radio Fujiko, però voglio dire che sì, il palco secondo me chiama la performance, è lo spazio in cui se si vuole esagerare, se si vuole amplificare un contenuto è possibile farlo, perché lì ha veramente un senso farlo. Quindi sì, mi piace essere performativa, che vuol dire o esasperare delle cose piuttosto potenziarle, ma mi sembra una cosa poi normale. Già i palchi hanno le luci, in genere hanno delle cose che potenziano, no? Quindi il palco chiama la performance da sé. Poi a volte, insomma, c'è anche chi si esibisce in ciabatte e quindi rende il tutto più casalingo, rilassato. Anche questa è una filosofia da provare. Ciabatte gialle? Sì, anche marroni. Qualche volta una stiratina, come fece Franca Rame per quel suo monologo. Sì. Sì, io adesso poi non parlerò, Fedra, parlerò meno, perché voglio cercare di rispondere in modo, come dire, esaustivo e breve. Un esperimento anche questo. Adesso? No, nel senso che voglio che tu mi faccia delle domande, perché se tu mi farai delle domande io sarò più ordinata nell'esporre che cosa combinerò quest'anno, l'anno a venire, insomma, nei mesi seguenti. Allora, per fare ciò io direi prendiamoci un attimo una pausa di riflessione. Sì. Facciamo pausa anche con la diretta. Sì. Così creiamo un po' di suspense. E quando torniamo facciamo quella cosa che sai che si fa nella seconda parte del coxo e che sei bravissima a farlo. Dimensioni. Ah, è vero, sì, devo fare una cosa, un compito. E dopodiché andiamo a concludere su quelli che sono, proprio in maniera anche schematica, questo. Ok. Così non possiamo perderti. Non ci dobbiamo perdere al prossimo giro. E non lo so, cosa potrebbe essere, ad esempio? Allora, io ascolterei forse... No, quella dopo. Le cicale. Io amo le cicale. Molti lo sanno che le amo. Va bene. Allora, facciamo così. La metto qui. Ci mettiamo anche... No, questo non c'entra. Ascoltiamo le cicale. Questo brano ci vuoi dire due cose?

ci vuole proprio, nel senso, perché se la meritano. Però prima ci sei tu con una telefonica, vero? Io dopo intervengo. Ah no, adesso no? Mi dici la, perché sì. Allora parto io dicendo e ricordandovi che venerdì 23 settembre, immagino, alle ore 18:30, un intero di design bolognese, viaggio surreale attraverso uno spazio reinterpretato, ABC, nell'ambito della seconda edizione della Bologna Design Week, un cammino nel design bolognese realizzato con una selezione di pezzi di design collezionati da Gazziero, Elica e Fabio Fornasari. Tra l'altro voglio dire che l'ABC, insomma, per chi non lo sapesse, è un'associazione molto importante di Bologna che si occupa di arte, di arti. Mm-hmm. E quindi la sede adesso qui non c'è. Ah, ma da domani su www.coxospaziale.blogspot.com tutti i link per approfondire meglio l'evento. Ma soprattutto adesso, in diretta con noi, niente proprio di meno che Fausto Savoretti, che... Benvenuto, ciao, Fausto. Ciao, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. E quindi stiamo lavorando. Esatto, state lavorando proprio lì. Per domani. Ricordaci siamo qui, dove siamo siete adesso. Ritocchini in via Alessandrini 11. Nella sede di ABC. Di ABC. E siamo alla quinta mostra a questo punto e questa è molto ambiziosa, una cosa abbastanza potente, diciamo, fatta per il Design Week. Mm. Quindi abbiamo molte aspettative. Che infatti questo viaggio surreale attraverso uno spazio reinterpretato ci parla anche di narrazione, se non sbaglio, quindi gli oggetti verranno magnificati in una dimensione narrativa dal lavoro che hai fatto tu insieme anche ad un'altra collega. Sì, insieme a Fabio Fornasari e a Lucilla Boschi, che sono dei personaggi molto particolari che ho conosciuto anni fa e in particolare l'anno scorso quando hanno progettato il padiglione della biodiversità a Milano, l'Expo. Abbiamo fatto la direzione lavori come studio e quindi una conoscenza professionale. Poi li ho conosciuti invece da un punto di vista artistico, perché loro sono artisti, critici, insomma, hanno veramente una grande complessità. E qui ci raccontano una storia speciale che è ambientata dentro l'allestimento della mostra, che ha il suo perché. Diciamo, la mostra racconta di una casa che può essere bolognese, ma ha uno stile anche vagamente californiano, perché è anche un po' surreale, ha degli oggetti un po' stravaganti, un po' pezzi storici, un pezzo di Man Ray, di Bernini, di Gaetano Pesci, insomma queste cose che vengono dalla collezione di Gazziero. E sono un primo livello della mostra che racconta del design come storia, diciamo, come l'abbiamo percepita, dell'importanza di questi oggetti. Che diciamo è un approccio un po' più istituzionale. Esatto, però siccome noi siamo molto liberi e aperti, abbiamo pensato di non fare la storia di un singolo oggetto, ma anzi abbiamo tutti pezzi speciali, sono prototipi fuori produzione, fuori catalogo, proprio oggetti da collezione un po' da vedere, quindi nei colori e anche nelle reinterpretazioni. E su questo siamo molto leggeri, diciamo, abbiamo fatto proprio veramente un gioco, perché ci serve ad ambientare uno spazio che è un omaggio agli architetti, ai progettisti, a coloro che si occupano invece di scegliere, diciamo, gli oggetti del design che vengono presentati nelle mostre, ma vengono usati anche nelle case, per creare un ambiente, diciamo, che dovrebbe essere il più possibile gioioso, stravagante, appassionante come le persone. Cioè l'idea è quella che un singolo oggetto possa creare un ambiente, quindi al di là della sua storia che noi possiamo approfondire, ma la sua scelta che la fa l'architetto ha delle conseguenze. E su tutto questo c'è l'allestimento, c'è la casa e c'è l'opinione critica di Fabio e Lucilla che danno una lettura ancora più complessa, cioè il fruitore, diciamo l'utilizzatore, quello che compra il mobile, ma anche il visitatore delle mostre, come vede queste cose? E tant'è che hanno messo all'inizio della mostra una ragazza che guarda una ragazza che guarda un quadro, diciamo, per dire che ognuno di noi cambia, insomma, nella mostra, nel guardare, ed è tutto un gioco di percezione, insomma, quindi il designer concepisce il suo oggetto con un'intenzione, poi lo prova a vendere con l'industria, insomma, a alterne fortune, viene inserito da un architetto in una casa e così via, e poi la persona che lo utilizza ha tutta una sua vita e tutta una sua relazione, diciamo, un po' simbiotica con questo oggetto. Beh, quindi è un po' complesso. Sì, sì. Ma una complessità che potremo attraversare e respirare negli spazi che state ultimando di allestire. Perciò ci vediamo sicuramente domani alle 18:30 ad ABC per l'inaugurazione di un interno di design bolognese. E mi chiedevo quanto dura la mostra? Dura 20 giorni e in particolare ci sarà un aperitivo anche per il Design Week che è il 1 ottobre. Allora mi sa proprio 10. Che ci risentiremo anche la settimana prossima. Sempre che tu accetti di navigare nuovamente nel Coxo, tu oppure certo, i tuoi colleghi. Ti ringrazio tantissimo, Fausto. Buon lavoro. Ciao, Fausto. Non mollare, che domani ci si diverte poi. Ciao, grande Coxo. Ciao. Ehi. Hey. Sì, ma Roberta, te lo chiedo sì. Un po' sottovoce così, sì. Ma ce lo fai qualche gingolino? Ma sì. Per il coxo, per il tuo coxo? Ma certo. Ah, che meraviglia, doppio stacco per tutti. No, ma allora, a proposito, sì. Io mi sto ancora riprendendo dall'esperienza, prima, certo. Però devo dire che la menzione mi dà sempre questa compostezza che mi sento finalmente a mio agio dopo che ho dato le pubblicità e mi ritrovo. Siamo entrati in un clima più serio, appena sì. Sono sopraggiunte le menzioni. Sì, sì, cioè, c'è quel rigore austro-ungarico, sì, neo-vittoriano, sì. Che insomma mia nonna me l'ha trasmesso nel sangue. Sì. In quelle terre venete lo scorso secolo. Questa puntata è spaccata in due praticamente. Dalle menzioni. Che però ci aprono a innumerevoli mondi e colgo l'occasione da metterla proprio, cacciarla qua in mezzo alle menzioni. Sì. Per aprire un altro mondo. Certo. Che è un brano di Roberta Giallo. Sì. Che io non ho ancora mai sentito. Ah. Vogliamo dirne qualcosa prima? Ma intanto diciamo il titolo. Il titolo è Start. Un titolo in inglese per una canzone in italiano, che appunto anche qui poi spiegare le canzoni è difficile, però start lo dice la parola stessa. Io parlo sempre degli inizi e delle fini, chissà perché, perché la mia vita è tutto un giro tondo intorno a queste due cose, un inizio e una fine. Un inizio e una staffetta che non finisce mai. Esatto, questo pezzo nasceva in origine come diciamo introduzione a uno spettacolo che mi ero immaginata. Quindi c'era questa cosa qui e parla appunto dell'intenzione di un viaggio, della me che vorrebbe fare un viaggio e perdersi nei meandri della storia, quindi scoprire che cosa le civiltà del passato magari combinavano. Quindi sì, è un viaggio, come dire, poi io tendo a ironizzare perché quando sono di fronte a argomenti importanti non ce la faccio a reagire, capito l'emozione. Ma tu hai una delicatezza riguardo ai testi che è rara. E quindi quando mi trovo a dire di che cosa parla questa canzone, la cosa che mi viene da dire è ascoltatela, però a parte gli scherzi parla di questo viaggio nelle ere lontane storiche, di questa volontà di andare indietro nei secoli. E quindi è una canzone che qualcuno ci ha visto dare incarnazione, qualcuno ci ha visto altre cose, però parla di questo e ha delle sonorità un po' orientali e non sarà magari per questo che poi sono riuscita ad arrivare ad Hong Kong. Anche Start. Per questo voglio conoscere l'umanità ed abbracciarla dall'antichità, vederne il bene e il male, chissà se questa civiltà si salverà. L'età dell'oro è lontana, ma ho la sensazione che la troverò per guardarla in faccia e portare con me il ricordo di un mondo che adesso non c'è. Viaggerò dentro un tempo infinito. Questi 30 anni hanno aperto una via e dico addio ad ogni mia nostalgia. Camaleontica mi muoverò dentro un inverno che estate ora so. Bisogno di ognuno di voi, perché il coraggio non mi manchi mai. Datemi amore e fiducia così, che inizi il viaggio e poi ritorni qui e viaggerò. Certo, le mille libellule ora mi guidano, io seguo. Meraviglioso. Grazie. Senza parole, senza fiato, trasportata in un altrove. In un'altra dimensione, sì, che poi è quello che mi piace fare un po' con la musica, no? Fuggire dalla realtà, oppure semplicemente incontrarne anche altri, perché a volte anche nella realtà si sta bene, quindi anche una fuga non necessariamente per fuggire dalla realtà, ma per vedere altro. E qui siamo sulle frequenze di Radio Città Fugico sì. E questa è la voce sorprendente, non ho parole, cantante del brano che abbiamo appena sentito, ovvero Roberta Giallo. Grazie. Che è il super mega galattico ospite della 151esima puntata del Coxo, la prima d'autunno. Wow. Giallo d'autunno. Poi mega galattico è stata sempre una parola che mi è piaciuta tantissimo, addirittura qui hai aggiunto il super. Cioè, quindi volevo quasi farne un acronimo quando ero coi co-conduttori coxici. Sì. Ma a questo proposito di co-conduttori coxici, noi potremmo riprendere con... Oh, ma perché fa così chiamare il player Pasquini? Stasera? Chiamare no. Il W, no? In Grecia. L'angolo della menzione. Yay! Sì, perché questo è anche il coxo. Certo. Quindi vado io a sto giro? Se vuoi, sì, vai tu. Vado io. I nostri corpi, le nostre città. Al Parco del Cavaticcio, Cassero. Arriva la seconda edizione dell'evento ideato da La Roboterie. Spero di aver pronunciato giusto alla francese, penso. Poi chiederemo, perché abbiamo un'espertissima di queer, del queer bolognese, che è l'esperta del coxo. Vabbè, una giornata di appunti per un festival post-queer. Una serata piena di musica, performance e cultura viva. Ed è in linea con noi Andy Joe, che fu anche W. Dico bene, Andy? Ebbene sì, buon Fertility No Day, no Fertility Day a tutte. Ah, grazie. Ma infatti in una giornata del genere non potevamo che avvalerci. Sto sentendo dei rumori strani, ma tu mi senti bene? Allora, io mi sono spostata, adesso qui non c'è nessuno, sono seduta proprio su un gradino di un portone molto queer, proprio per fare questa intervista. Ma mi sentite? Sì, sì, ma visto che ci siamo, che cosa succede lì in Piazza Maggiore in questa bella giornata? Allora, in questa bella giornata, Fertility Day, questa diciamo proprio per dirla chiaramente presa per il culo da parte presa per il coxo, per cortesia. Per il coxo, esatto, nei confronti nostri delle donne, ci sono state varie manifestazioni. Io sono andata primo pomeriggio con il mio gruppo Le Mujeres Libres in quella piazzetta di fronte all'Arena del Sole a fare un po' di volantinaggio, insomma informare le persone su questa campagna incredibilmente orrenda, razzista e vabbè, il peggio del peggio, come penso tutte lo sanno. E adesso c'è stata invece la favolosa coalizione sotto le due torri, c'è stato un bellissimo gioco dell'oca dove ovviamente la fertilità vince, quindi se sei gay sei subito fuori, se invece rimani incinta fai due figli e comunque riesci anche a mandare avanti la tua carriera, avanzi di 4-8 caselle, insomma, ecco. Meraviglioso, meraviglioso. Subito dopo siamo tutte senza figli, guarda. Bene. Tutto al palo. No, ma ok, quindi effettivamente il ruolo di esperta queer del coxo non poteva essere più congeniale che alla nostra cara Andy, che in effetti mi fa piacere, ti saluto tanto e anche alla nostra co-conduttrice. No, aspetta, perché personalmente ma un giorno faremo una puntata di tutti i co-conduttori coxici insieme. Devi. Senti, ma questo evento di La Roboterie ci racconti qualcosa? Allora, io non ne sono coinvolta direttamente, comunque però li conosci. Ovviamente li conosco e anche soprattutto conosco la parte, insomma, alcune performer e la cantante, una che suonerà, insomma, che farà un concerto, e Siuxi, una giusto? Che invece ne presenterà una, esatto, Marzia Stano, sì. Sì, sì, sì. E poi conosco anche Siuxi che presenterà l'evento e farà anche lei una performance. E niente, questa qui è una serata praticamente la roboterie sono una crew di ragazzi che fanno musica techno, però sono, diciamo, nostri corpi, nostre città, in particolare proprio una serata che diciamo interseca non soltanto la musica ma anche la politica, forme artistiche, l'emancipazione femminile. Poi se leggete comunque sull'evento c'è, ci sono abbastanza informazioni su questo. Beh, ti ringraziamo per comunque questo breve approfondimento che ha arricchito la nostra menzione. Da domani su www.coxospaziale.blogspot.com, oltre al link per riascoltare la puntata, anche l'evento, il link per approfondire l'evento che avrà luogo venerdì prossimo dalle 19. Sì, cioè domani. Esatto, domani. Sì, mi è invidiata. Detto fatto, hai capito com'è? Va bene, allora ti saluto, ti lascio, ciao, di nuovo nel piede. Ciao, dillo. Che mi hanno detto dilla, perché l'entrata, gli eventi, diciamo gli spettacoli sono gratuiti dalle 7 fino alle 10, poi dopo si pagherà un biglietto, quindi per vedere il tutto consiglio di venire un po' prima. Perfetto, meraviglioso, le dritte dell'Andy Joe da non perdere. Oh yeah. Grazie mille Andy, ciao. Grazie a voi, un bacione. Ciao. Torna in piazza, ciao. E combatti per noi. Bello questo. E beh, c'è il ritmo nel Cox, cosa, certo, credi? E beh, c'è il ritmo nel Cox, perciò continuiamo, adesso ricoxiamo. Sabato, abbiamo due menzioni così, papà? Sì, allora, sabato 24 settembre, ore 18, anche qui attenzione perché in inglese... Sono contenta che sia toccata a te. Utopian Unemployment Union of Bologna. Galleria Più, presso Galleria Più, si tratta del primo solo show italiano dell'artista russa, e qua, perdonatemi, Gluklia. Sembrerebbe di sì. Gluklia. È una menzione di Pasquini, dovremmo avercela, verificheremo. Speriamo. Quindi, diciamo, show italiano dell'artista russa Gluklia. Si tratta di un lavoro d'arte, ma anche di uno spazio critico per promuovere l'innovazione sociale, dove il pensiero si trasforma in realtà. Un viaggio di esplorazione nei territori dell'eterotopia, oppure eterotopia. Ma lo stacco c'è lo stesso. Sì. Eterotopia forse. Quindi vado io con domenica 25 alle ore 15 in Piazza Maggiore, The Head in Your Head. Wow. Fa anche rima. Cosa accade se due mani sconosciute sorreggono la tua testa in un atto di sospensione e fiducia? Di cosa si tratta? Sicuramente di Contact Improvisation, ma non necessariamente solo di quello. È un incontro gratuito, chi è curioso venga. Mi in piazza, incuriosito questa in cosa, piazza delle c'è mani, posto della per testa. Tutti. Yeah. Abbiamo finito con le menzioni, wow. Ci siamo tolti il momento di... Sì, il momento diciamo del professorale. E adesso dobbiamo spremere gli ultimi momenti di trasmissione per farci dire da Roberta dove, cosa e quando. Allora, innanzitutto cominciamo con le cose più vicine. Per chi ha a che fare con San Marino, la Repubblica di San Marino e nei dintorni, beh, sappiate che il 24 settembre sarò a San Marino all'interno di questo festival Artisti in Casa o Arti in Casa. È una cosa molto interessante perché io sarò una degli artisti che si esibiranno all'interno di una di queste case messe a disposizione dalla Repubblica di San Marino, dove il pubblico arriverà in dimensioni ridotte, cioè nel senso entreranno ogni volta una ventina di persone per un set di 20 minuti, quindi che bello, finalmente non devo suonare troppo, potrà essere una cosa molto concentrata, intima. E intima, addirittura sto pensando di non amplificarmi neanche perché... Vabbè. Essendo in casa sarà gradevole e carino conoscere anche, no, chi viene a trovarmi da vicino. Quindi 24 settembre a San Marino, Roberta Giallo. 24 settembre, sabato. Esatto. Cioè, ci porti via tutta Bologna che verranno di sicuro a vederti da vicino, anche perché ti consiglio, cioè se mi permetto, è un'emozione sentirti cantare dal vivo realmente con, wow, i tuoi polmoni, la tua aria. Perciò probabilmente... Sì. Che bello con i miei polmoni. Sì, no, nel senso, no, non con quelli degli altri che solito te li fai prestare. No, dico senza amplificazione. No, sì. È proprio un impatto diverso e mi piacerebbe un sacco sentirti in sette in una stanza. Beh, se ci sei, se c'è posto on my car, vedremo. No, però deve essere sarà una cosa interessante sia per me che per il pubblico. Ci saranno questi tre set da 20 minuti l'uno sparpagliati per la giornata del 24 a partire dal tardo pomeriggio. E questo è uno. Poi tra le altre cose rapide così, così, so che sarò, e questa è una cosa bella perché mi piace far parte di questo spettacolo, diciamo, concept teatrale dedicato al poeta Roberto Roversi, che ha anche scritto dei testi interpretati da Lucio Dalla, quindi di nuovo eccomi vicino a delle personalità che amo, insomma, moltissimo, e saremo a Volterra con questo concept Roberto Roversi, un poeta resistenziale, immagino in una formula ridotta, per rappresentare insieme a Antonio Bagnoli, che insomma declamerà i testi, tra l'altro lui è il nipote del poeta, e a Paolo Piermattè, che invece interpreterà alcuni dei brani, e io altri. Quindi saremo Paolo a Volterra. Piermattè. Paolo Piermattè, ce l'ho poi un altro cantautore, e quindi saremo noi tre, insomma, in qualche modo a ricordare Roversi e Lucio Dalla, Volterra. Quando questo? Questo il 20 ottobre, un po' in là. Beh, tornerete magari anche con Pier Mattei a raccontarcelo. Non posso ufficializzare, sì, poi già altre date che ci saranno ad ottobre mie, ma insomma si stanno chiudendo, come si dice, in questi giorni. Però voglio dare una notizia importante, l'avevo accennato prima, ripartirà quest'anno il Martedì in Giallo al Bravo Caffè, ovvero questa rassegna dedicata ai cantautori e curata da me, che sono Roberta Giallo, ripeto il nome perché chi vuole saperne di più deve cercare il mio profilo e chiedere lì. L'anno scorso è stata una cosa molto bella, dimmi quanto tempo ho perché così stringo. Allora sì, insomma ragazzi, informatevi anche attraverso di me su che cos'è il Martedì in Giallo. Ultimissima cosa, uscirà 3 minuti. No, caspita, sì, sono sì, tanti, voglia, sì, sì. Allora faccio in tempo a spiegare che cos'è il Martedì in Giallo al Bravo Caffè. Ragazzi che siete bolognesi, ragazze che siete sintonizzati su Radio Fujiko, sappiate che l'anno scorso c'è stata questa rassegna, appunto il Martedì in Giallo, in cui ho avuto l'onore e il piacere di ospitare dei cantautori e delle cantautrici bravissime da tutta Italia. Quest'anno l'esperimento si ripeterà, visto che insomma ha riscosso successo, e poi è una cosa a cui voglio dare continuità perché mi sembra giusto valorizzare Bologna da questo punto di vista. Indubbiamente, preziosissimo, c'è tutta una tradizione da recuperare. La culla dei cantautori. E quindi sì, quindi sappiate che se siete cantautori o cantautrici interessate ad esibirvi all'interno di questa rassegna, che si terrà al Bravo Caffè, un locale molto importante, contattatemi attraverso Facebook piuttosto che il mio sito, insomma mi trovate Roberta Giallo, contattatemi. Lei è Roberta Giallo, e se nel caso ve lo dimenticasse, da domani su www.coxospaziale.blogspot.com, oltre al link per riascoltare, trovate tutti i link di riferimento. Wow, Fedra, ma come fai ad andare così veloce? Guarda, non lo so, è una roba pazzesca. Impappino poi quando... Poi ecco, tra le cose che volevo dire, sicuramente questo sarà un anno di novità, perché lo dico con grande scaramanzia, insomma uscirà un album a breve, non voglio dare date, non voglio dare niente perché poi magari le date si spostano, cambiano, e quindi e io lo sto aspettando da troppo, non me lo puoi dire. Però se non, ragazzi, è subito, quando uscirà, come le cose tanto attese, sarà una sorpresa, e l'ho voluto dire così, sussurrato. Sì perché è un album, comunque l'album che uscirà, che è un album che sussurra l'amore e non lo grida, ecco, se vogliamo dire. E a questo punto, se si parla di amore, se si parla di sorprese, di sussurrato non c'entra molto, no. Però ti rilancio la carta di Pier Mattei. Sì, allora, no, prima, siccome dicevo che ho citato Paolo Pier Mattei perché con lui ho fatto delle cose e ne farò di altre, stiamo seguendo questa cosa, stringo. Beh, con Paolo ho fatto anche una canzone. Che è la colonna, la sigla o la di un format teatrale. Teatrale musicale. Che si chiama The Dark Side of the Music, e il resto è dentro la canzone, ascoltatela. Sì, che è la mia hit preferita del 2016 e forever. Diciamo il titolo? Fuliggine. Speriamo che parta. E ti fanno i complimenti, e ti danno consigli finti, c'è chi spera che ti sbagli. Uè, tanto prima o poi ti spogli. Intelligente ma non troppo, e la scemenza che fa colpo. Ci serve un pezzo bello fresco, non puoi essere depresso. Fuliggine, questo è solo fuliggine. Fuliggine, resta solo fuliggine. Per la tua emancipazione, fatti fare un tatuaggio. Scarrafone o scarrafaggio. Metti pure il parrucchino, ci vuole un look più sbarazzino. io so quello che ci vuole, io maneggio le pistole. Bang, bang, bang, bang, bang. Questa è la sua strategia, mi ha portato a casa sua, ha tirato fuori l'arma. E siamo qui che cantiamo sulle siamo note di questa meravigliosa canzone che mi inebria. Mi fa piacere, no? Adesso sono soddisfazione. L'abbiamo trasmessa un sacco, io ogni volta che potevo mi sparavo un po' di puligine e ti salutavo un sacco. E sono contentissima che Roberta Giallo sia e le sue creazioni, progettualità siano state la super mega galattica protagonista della 151esima puntata di Coxo Spaziale. E ci rivediamo presto, vero? Ciao, baci abbracci, certo, tornerò presto per parlarvi di me, delle novità, ma anche di altri. E per tante dirette. Tante, tante dirette, sì. E questa è Roby Yellow, invece. Un saluto anche a lei. Ah no, è già andata. Però... Pollice va su, su, su. Non farlo andare giù, giù, giù. Perché il pollice va su. Questa è solo un fulì.